Partigento, 29 dicembre 2055. C'è da fare spesa di caricare lo frigo. Avvisate un ribellino, con Mimmo e lo Fusco. E facete pure una canzone. Ti saluto, state buona. Per avere gli altri cademo ancora sta zona. E tra tu a tu un unico di confusione umana. Stai a tirare la vibrazione proprio a vorti. Stiamo tutti sotto il rota, vi lucchia di parto. Non stai, vi dimuni di pressa, non ci spetto fino a crai. Pensiamo buona festa, non pensiamo male guai. Degno di fuori li ghiai. Ma chiari quattro amici con Tsunamu, ce li sai. Non manca niente srai, la musica sta vai. Tsunamu tra sta terra, tocca firma che sta fai. Non li fermamo mai, fancula lui stand by. Lo dici tu a carcare sempre lui buttone play. Cinca zona e cinca canta, cinca palla la laranza. Cinca canta e cinca zona che la situazione è buona. Ci si frigola sta in posa con una bella carosa. Cinca beve si ammanetta e regola tutto ducetta. Musica di tanti gusti, curva al lavoro una troppa. Con lo zeppo modi costi, cari a terra e non si scoppa. Belli nuezzi si sono qui armati questa pista tappa. Agli veterani questi non ringraziamento scappa. Per avere gli essi cademo ancora sta zona. E tra stu altro unico di confusione umana. Stai a dirti che la vibrazione proprio a forti. Stiamo tutti sotto a ruota, pilu che anni parti. Per avere gli essi cademo ancora sta zona. E tra stu altro unico di confusione umana. Stai a dirti che la vibrazione proprio a forti. Stiamo tutti sotto a ruota, pilu che anni parti. Cucciai in cerca di già campo marino. E mi tu mandare a per caso lì su nava. Stava pure un lupi pone da vicino. E accettammo la proposta che arrivava. Niente alla olive e quello un tutto di fianco. Suonammo e ballammo ma non mi sentia stanco. Era una grande festa ed era pure strana. Mamma mia questa sì che confusione umana. E danni quei passano e tu non ci muori mai. E più grande diventa senza nessuno uguale. Se più cristiani pure le curastiere. Tutti si divertono e ti c'è maniere. Vai Sarin, già siamo vista trovata. Io sicuro non l'era pensata. Lunga gli italiani infatti diceva qualcuno. Speriamo che allo prossimo non manca nessuno. Per avere gli essi cademo ancora sta zona. E tra stu altro unico di confusione umana. Stata tientica la vibrazione proprio a forti. Stiamo tutti sotto a ruota, pilu che anni parti. Per avere gli essi cademo ancora sta zona. E tra stu altro unico di confusione umana. Stata tientica la vibrazione proprio a forti. Stiamo tutti sotto a ruota, pilu che anni parti. Se fa lamentarsi tra stu posto non c'è di no. Cazzo sono i soliti così pochi dei. Te s'andà su una guacchina cosa buona. Fanno la fila, l'amici mia. Porti da una foschia di frenesia. Qua ti piace che a fuoco dopo a ballare. Pensa la olivi dopo a respirare. Fumiamo ogni tipo di musica. I cani parte proprio una cosa unica. Signori e signore, l'estate di Natale. Tutti che aspettiamo un evento speciale. Che ormai è una pura grande tradizione. Un evento che attira tante persone. Per avere gli essi calemo ancora sta zona. E tra stu altro unico di confusione umana. Ricordo l'ultimo che anni fa tu fuori da me. Ballai fino a tarda notti con chiunque. Zazzava la terra e si muovino i pariti. Stativi tranquilli che la notte non ci dormiti. Dici tu non mi muori, tu non ci muori mai. Casimo capaci, tu l'organizziamo crai. Con tutti i cristiani che vengono lo che sai. Dorimo che valore in disparti e tonight. Irrefrenabile, temibile, ma mai vulnerabile. Non inutile, come un soprammobile. Amabile come un cantante con le rime imboccabile. Il pieni parti è una festa impareggiabile.